Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. E ricominciamo così, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo nuovo anno di Effetto Notte, un inizio di nuovo anno che mi ha dato la bronchite, ma che non ci ha fatto mancare delle cattive notizie. Questa, prima di tutto, la morte di Pino Daniele, che è più qualcosa che ci tocca un po' le corde del cuore, dell'anima, un personaggio, un artista che ci ha fatto emozionare. L'altra grossa notizia negativa a livello internazionale, che invece sparge terrore, paura, indignazione, è quella del gravissimo attentato che c'è stato oggi in Francia con 12 morti. Quindi ricominciamo così il nostro anno di Effetto Notte e questa parte di settimana, come al solito all'inizio, per chi per la prima volta dovesse ascoltare Effetto Notte, vi racconto come sempre la giornata in sintesi all'inizio e poi cominciamo a approfondire alcuni argomenti, tra cui naturalmente l'attentato in Francia. Parleremo anche di funerali, questo è la folla a Roma, che sapete c'è stato il doppio funerale oggi per Pino Daniele, uno a Roma e l'altro a Napoli, voluto fortemente dai fratelli, in particolare dalla famiglia. E poi parleremo anche di disoccupazione, tanto per stare sulle buone notizie, ma partiamo dai titoli. L'attentato a Parigi, sono 12 morti nell'assalto al giornale satirico Charlie Hebdo, i killer sono fuggiti, Obama offre alla Francia tutta l'assistenza necessaria per catturarli. Allarmi attentati in Europa, misure di sicurezza rafforzate anche in Italia, al Viminale un vertice con il ministro Alfano che dice l'allerta è altissima. Mafia Capitale, il tribunale del riesame sottolinea il salto di qualità dell'organizzazione criminale con la giunta Alemanno. Mediaset Berlusconi chiede la liberazione anticipata dai servizi sociali e per le quote Fininvest in Mediolanum, gli avvocati dell'ex cavaliere contro la Banca d'Italia. Poi la morte di Pino Daniele, funerali a Roma e a Napoli, aperta un'indagine per omicidio colposo, domani l'autopsia. E per il cinema, gli Stati Uniti chiedono alla Polonia l'estradizione del regista Roman Polanski. Partiamo quindi naturalmente dall'attentato terroristico in Francia al giornale satirico Charlie Hebdo, un attentato che ha provocato, vi dicevo, 12 morti e ha lasciato in Francia, ha lasciato la Francia e il mondo intero, quindi a livello internazionale davvero sotto shock. Gli spari in redazione, l'urlo Allah Akbar rimbomba nelle strade di Parigi e mette subito la firma al peggior attentato in Francia dal 1961, 12 morti, 8 feriti. All'epoca c'era la guerra con l'Algeria, stavolta l'obiettivo è la satira di Charlie Hebdo e i suoi disegnatori per vendicare il profeta, gridano i terroristi. È in corso la riunione del mattino quando uomini incappucciati armati con Kalashnikov e lanciarazzi piombano negli uffici e puntano direttamente contro le più importanti firme, a cominciare da Sharb, 47 anni, direttore e disegnatore, vero bersaglio dell'assalto pianificato contro il giornale che aveva pubblicato vignette di Maometto e che in copertina ora ha il viso di Houellebecq, lo scrittore messo sotto protezione per le polemiche intorno al suo romanzo Sottomissione sull'arrivo di un presidente islamico. Cadono in pochi minuti di terrore anche alcuni tra i più famosi vignettisti, Cabot, News, Wolinski, un economista invitato, due poliziotti, ad uno il colpo di grazia viene dato mentre rannicchiato sul marciapiede, come riprendono le telecamere di un cronista dell'agenzia Premier Ligne che ha sede di fronte. Ci siamo rifugiati sul tetto, gli spari sono proseguiti per parecchi interminabili minuti, racconta Benoît Brigé, finché non abbiamo visto uscire persone incappucciate. Almeno due uomini, precisa il procuratore, forse tre, che parlano un francese perfetto, militanti probabilmente di Al-Qaeda Yemen, a quanto loro stessi hanno detto costretto al momento di rubare l'auto per la fuga. Già nel 2013 Sharb era stato inserito nella lista degli obiettivi di Al-Qaeda per crimini contro l'Islam. Lui, disegnatore triste, che nell'ultima vignetta notava sarcastico: ancora nessun attentato in Francia, risponde un talebano. Aspettate, abbiamo tempo fino a fine gennaio per farci gli auguri. Sono arrivati con una strage. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Poi ci collegheremo direttamente con la Francia, anche perché potete immaginare quale sia lo stato anche dell'opinione pubblica, della gente, l'atmosfera, così appena chiuse le feste, improvvisamente questo trauma. Intanto cresce l'allarme attentati un po' in tutta Europa e al Viminale, il Ministero dell'Interno, si è tenuto oggi un vertice col Ministro Alfano. Il Ministro dell'Interno, nel corso della registrazione di questa sera di Porta a Porta, ha detto: il livello di allerta è elevatissimo, benché non ci siano tracce concrete di segnali specifici di organizzazioni di eventuali attentati in Italia. Nel frattempo comunque sono state rafforzate le misure di sicurezza nel nostro paese e sono state ovviamente tantissime le reazioni in Italia per il massacro di Parigi. Condanna unanime ma approccio diverso tra sinistra e destra. Il mondo politico italiano reagisce all'attentato di Parigi, il premier Matteo Renzi si reca all'ambasciata francese di Piazza Farnese. Orrore e sgomento per la strage che definisce un attentato alla libertà dell'Europa e non solo della Francia. Credo che oggi pianga tutta Europa. Pianga tutto il mondo libero, piangano tutte le donne e gli uomini che credono nella libertà e nella ragione. Tentare di colpire un simbolo della libertà è un gesto di orrore senza fine. L'Europa intera ha il dovere di reagire e la presenza... Per il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è un gesto vile ed esecrabile che non colpisce solo un giornale, ma uno dei pilastri della nostra civiltà, la libertà di stampa. Da parte del centrodestra la condanna si fa più anti-islamica. Per il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, dopo il massacro di Parigi va bloccato Schengen per evitare la libera circolazione e il passaggio di terroristi tra Francia e Italia. Per Silvio Berlusconi è una follia, ci sentiamo tutti attaccati e colpiti. In Forza Italia Maria Stella Gelmini chiede poi di fermare la costruzione di nuove moschee a Milano. Cauto il Movimento 5 Stelle, nel blog di Beppe Grillo si chiede di distinguere tra islamici fondamentalisti e terroristi. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Tra l'altro vedevo adesso un'agenzia di pochi istanti fa, il Consiglio dei Ministri annuncia, cioè, in realtà è una nota della Presidenza del Consiglio, che annuncia un giro di vite contro il terrorismo al prossimo Consiglio dei Ministri. A quanto si apprende verrà approvato un provvedimento che mira a colpire in particolare i foreign fighters, quindi... diciamo i combattenti stranieri. Alla misura lavorano da tempo i tecnici del ministero, dopo l'attentato a Parigi si stringe sui tempi. Quindi abbiamo parlato prima delle reazioni italiane, naturalmente l'attacco contro il giornale satirico francese ha suscitato reazioni indignate un po' in tutto il mondo a livello internazionale. I'm sure the whole house will want to join me in condemning the barbaric attack this morning. Tra i primi a reagire all'attacco armato contro la redazione di Charlie Hebdo, il premier britannico David Cameron, che ha informato dei fatti nel corso di una sessione parlamentare, ha definito gli omicidi di Parigi barbari e rivoltanti. Siamo al fianco del popolo francese nella lotta contro il terrorismo e nella difesa della libertà di stampa, ha aggiunto Cameron. La notizia ha raggelato l'Europa, che vede spostarsi sul proprio suolo il conflitto fra i terroristi e il mondo civilizzato. La cancelliera tedesca Merkel, già preoccupata per l'onda crescente antislamica nota come Pegida, ha definito quello contro Charlie Hebdo un abominevole attacco non solo ai cittadini francesi ma anche alla libertà di stampa e di espressione della cultura democratica. Scioccati dall'attacco brutale si sono detti il presidente della Commissione europea Juncker e del Consiglio europeo Tusk, che lo ha definito un attentato contro i nostri valori fondamentali e ha invitato a proseguire senza sosta la lotta al terrorismo. Sull'altra sponda dell'Atlantico il presidente americano Barack Obama ha condannato con forza l'orribile sparatoria e ha aggiunto di aver dato direttive alla sua amministrazione affinché fornisca ogni assistenza necessaria per contribuire a portare questi terroristi davanti alla giustizia. L'attacco a Charlie Hebdo era teso a dividere, non dobbiamo cadere cadere in questa trappola, così il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, condanne anche dalla Lega Araba e da Al-Azhar, la massima autorità religiosa sunnita. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il presidente americano Barack Obama condanna, dice con forza, l'orribile sparatoria negli uffici di Charlie Hebdo e afferma di aver dato direttive alla sua amministrazione affinché fornisca ogni assistenza necessaria per contribuire a portare questi terroristi davanti alla giustizia. Ed è un'altra notizia di questi istanti: i due uomini che hanno sparato nei locali di Charlie Hebdo sono due franco-algerini di 32 e 34 anni, tornati in Francia quest'estate dalla Siria. Lo rivela il sito di un altro giornale francese, Le Point, citando fonti confidenziali. C'è inoltre un terzo ricercato, un giovane senza fissa dimora, che potrebbe averli aiutati. Tra l'altro, la copertina della rivista satirica Presa di mira dei terroristi è dedicata all'ultimo libro di Michel Houellebecq, arrivato oggi nelle librerie francesi. Questo libro in Italia sarà il 15 gennaio e che aveva già suscitato aspre polemiche nelle scorse settimane. Sentiamo quali sono i motivi. Nel suo ultimo romanzo, Sottomissione, Michel Houellebecq immagina la Francia nel 2022. Le elezioni presidenziali vengono vinte da un partito islamico moderato che si oppone alla destra di Marine Le Pen. Ne nasce un paese diverso, dove non c'è disoccupazione, perché le donne lasciano il lavoro per restare a casa, e dove l'economia cresce per l'arrivo dei petrodollari da Qatar e Arabia Saudita. Il protagonista del romanzo è un professore della Sorbona di 44 anni. Anche lui lentamente cede alla nuova società islamizzata, innanzitutto per mantenere il posto all'università, ma poi ci prova gusto. Di fatto si converte. Da laico in una società laica e democratica diventa convinto che l'Islam sia l'unico modo per reagire alla decadenza dell'Occidente. La tesi del protagonista è che la libertà, l'autonomia e l'individualismo democratico hanno portato il genere umano allo sconforto. E paradossalmente, solo un sistema che priva della libertà rende felici, perché meno responsabili. Houellebecq ha precisato che la sua non è una provocazione, ma un'accelerazione della storia, cosa che ha ulteriormente alimentato le polemiche. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso passiamo, poi naturalmente torneremo a parlare di questo argomento. Vi dicevo, voi potete riprendere le buone abitudini, che sono quelle di partecipare in modo appunto interattivo a Effetto Note, o con i messaggi al 349-238-6666. 349-238-6666. Poi vi ricordo che c'è sempre lì per voi la pagina Facebook di Effetto Notte. Adesso però andiamo sulle notizie italiane, con Silvio Berlusconi che tramite i suoi legali ha presentato in tribunale la richiesta di liberazione anticipata nell'ambito dell'affidamento in prova ai servizi sociali di un anno, concesso in seguito alla condanna definitiva, vi ricordate, per il caso Mediaset. Spiega di aver rispettato tutte le prescrizioni, di aver modificato le proprie abitudini di vita e la propria attività politica, una buona condotta insomma, in base alla quale secondo la legge si può ottenere uno sconto di pena. È per questo che Berlusconi tramite suoi legali ha depositato al Tribunale di Sorveglianza di Milano la richiesta di liberazione anticipata di 45 giorni, una richiesta arricchita anche dalle scuse che l'ex leader di Forza Italia rivolge alla magistratura per le frasi pronunciate in TV e in tribunale. L'ex cavaliere, lo ricordiamo, è stato condannato il 1 agosto 2013 per frode fiscale dalla Cassazione a 4 anni di reclusione, di cui 3 coperti da indulto, e aveva chiesto e ottenuto di poter scontare l'anno residuo in prova ai servizi sociali. Per lui quindi l'obbligo di frequentare la struttura per anziani di Cesano Boscone, un progetto rieducativo, si legge nella richiesta, dal quale Berlusconi ha tratto spunti di riflessione sulla condizione degli anziani. In ogni caso, secondo i legali, è da ritenersi acclarata l'evoluzione positiva della sua personalità. La decisione dei giudici potrebbe arrivare già la prossima settimana, ma non inciderà sull'agibilità politica di Berlusconi, che in base alla legge Severino non sarà candidabile fino al 2019. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Vi dicevo, tra le notizie c'è anche quella della disoccupazione che cresce ed è il record quella giovanile al 44%, poi ne parleremo più tardi. Per la cronaca, si torna a parlare di mafia capitale perché il Tribunale del Riesame ha rigettato la revoca degli arresti per 5 indagati di mafia capitale con questa spiegazione, con questa motivazione: un'organizzazione che operava nella capitale da anni nei settori criminale, economico e della pubblica amministrazione, che si espande in seguito alla nomina di Alemanno quale sindaco di Roma. Quindi, secondo il Riesame, ha trovato humus favorevole questa organizzazione criminale con la giunta Alemanno. Parliamo anche di sfratti, ancora in sospeso la richiesta di una proroga per gli sfratti per fine locazione chiesta soprattutto da Milano, Roma, Napoli, che insistono nonostante siano arrivate le rassicurazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Del Rio di voler aiutare le famiglie più in difficoltà. Tra le mille proroghe, il blocco degli sfratti per fine locazione non c'è proprio stato. I motivi ci sono, hanno spiegato al Ministero delle Infrastrutture, che non è stato incluso nelle moratorie annuali per l'aumento del precedente decreto casa dei fondi per gli inquilini in difficoltà e i morosi incolpevoli. Ma i problemi restano, come hanno scritto in una nota congiunta agli assessori alle politiche abitative di Roma, Milano e Napoli, le tre aree metropolitane più grandi d'Italia, che hanno chiesto al governo di reinserire la proroga, pena l'emergenza sociale. Soprattutto perché si tratta di categorie diverse da quelle coperte dai fondi, come spiega Daniela Benelli, assessore alle politiche abitative a Milano. Sono famiglie che hanno sempre pagato l'affitto, ma che non si possono permettere, a fronte di uno sfratto, per le loro condizioni sia economiche che sociali, di trovare un alloggio a prezzi di mercato. E mentre il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, invita a non drammatizzare il problema e parla del blocco degli sfratti come strumento superato contro l'emergenza, mentre si muovono anche l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, per una proroga temporanea, e i sindaci delle città metropolitane, tema di oggi nell'incontro, l'assessore alle politiche abitative della capitale, Francesca Danese, rilancia. Io penso che insieme potremmo fare un tavolo che immediatamente lavori a creare delle situazioni, delle soluzioni alternative. Non possiamo né vivere né morire di proroghe. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parleremo poi dei funerali di oggi Pino Daniele, per Pino Daniele due, abbiamo detto, uno a Roma e uno a Napoli. Massimo da Milano dice: mi scusi, ma com'è possibile fare due funerali? È permesso? Credo che non ci sia nessuna difficoltà, se sono d'accordo i parenti, se decidono in una stessa giornata di farlo in una città e anche in un'altra, non credo che ci sia nessuna legge che lo vieti, per quello che posso sapere. Ne parleremo dopo e poi parleremo anche, cerchiamo di capire, visto che è una cosa credo sulla quale abbiano riflettuto in tanti, come ci si deve comportare se si ha il sospetto di un attacco cardiaco. Poi lo chiederemo anche a un cardiologo. E per il cinema c'è un'altra notizia. Per chiudere, le autorità giudiziarie americane hanno chiesto alla Polonia l'estradizione del regista Roman Polanski, ricercato dal 1977 con l'accusa di aver stuprato una minorenne. La richiesta è stata avanzata dalla procura di Los Angeles. Eccomi qua, dicevo, con la mia bronchite, ma adesso soffermiamoci sul fatto gravissimo di oggi, che avrà naturalmente ripercussioni per molto tempo, questo dell'attentato in Francia. Sentiamo anche una parte dell'audio che è stato registrato a livello amatoriale. Oddio. Questi sono gli spari con i fucili Kalashnikov da parte di questi attentatori, con passamontagna, vestiti di nero, Parigi sotto shock per questo attacco al giornale satirico Charlie Hebdo. Si tratta dell'attacco terroristico, pensate, più grave degli ultimi 40 anni, dal 1961 in Francia. Ha provocato 12 morti nella redazione appunto di questo settimanale satirico, noto per il suo stile ironico, provocatorio, per il quale era già stato bersaglio di terroristi islamici con attentati nel 2011, vi ricordate le famose vignette contro Maometto? L'attacco armato è stato compiuto da tre uomini incappucciati, vi dicevo, c'è stata questa sventagliata che avete sentito di pallottole di Kalashnikov e urlavano Allah Akbar, Allah è grande. E è stato registrato questo audio, anche parte del video, forse qualcuno avrà visto sui siti, da parte di alcuni dei giornalisti che sono riusciti a scappare, si sono rifugiati sul tetto. Sono morti, sembra al momento che siano 10 tra giornalisti e vignettisti, tra cui anche il direttore del giornale e due poliziotti. Il direttore Charbonnier, che è celebre disegnatore satirico anche, è stato classe 1966, e poi il famoso vignettista Volinsky tra le vittime, almeno 4 i feriti gravi. Però che atmosfera sta vivendo la Francia in questo momento, risvegliatasi così in modo traumatico dopo le feste? Lo chiediamo a Marco Mussanè, corrispondente della Francia del Sole 24 Ore. Ciao Marco. Buonasera a voi. Quindi immaginiamo anche le misure di sicurezza, la tensione, com'è in questo momento la situazione in città? Beh, sicuramente una città, un paese sotto shock, nel senso che è un attentato di una gravità tale con un obiettivo così simbolico che non può non aver scioccato la città e il paese. ovviamente le misure di sicurezza che fin da questa mattina, subito dopo l'attentato, sono state decise dal governo con un rafforzamento delle misure antiterrorismo, si vedono, c'è cioè la polizia schierata nei luoghi considerati più a rischio, c'è il divieto di parcheggio nei dintorni dei possibili obiettivi, le uscite scolastiche sono state sospese, insomma c'è una sicuramente, insomma, si sta vivendo una giornata difficile, problematica di un paese che, come dire, se non è in guerra, insomma, poco ci manca, perché l'attentato è effettivamente di una gravità, una strage, enorme. 12 persone così, in un giornale sì. Che nessuno si sarebbe aspettato. Sì, nessuno si sarebbe aspettato, ecco, forse no, nel senso che sicuramente Charlie Hebdo era uno degli obiettivi più sotto controllo, tanto che il direttore aveva anche una guardia del corpo, no? Aveva un po' della sotto scorta da ormai alcuni anni, da quando nel 2006 il giornale aveva ripubblicato le famose 12 caricature di Maometto. Quindi la lunga memoria degli attentatori, evidentemente, no? Sì, poi la situazione, in realtà c'era stato un episodio che aveva, come dire, fatto aumentare la tensione nel 2011, quando Charlie Hebdo era uscito con un attestato in occasione della vittoria del Partito Islamico in Tunisia, era uscito con un numero monografico intitolato Sharia Hebdo. Nello stesso giorno dell'uscita la sede era stata distrutta da un incendio criminale, e da allora in particolare le minacce si sono fatte molto più pressanti nei confronti del giornale, del suo direttore, dei principali collaboratori. Tant'è che alcuni cominciano a chiedersi se effettivamente le misure di protezione del giornale, sostanzialmente due poliziotti, un poliziotto all'ingresso e che è stato ammazzato oggi, di scorta al direttore, entrambi uccisi, non fossero effettivamente poco. Ecco. Senti, Hollande, il presidente francese, ha proclamato per domani lutto nazionale, no? Sì, domani lutto nazionale, 3 giorni di bandiera mezz'asta e un solenne appello all'unità del paese, in difesa ovviamente dei valori di libertà, di espressione e contro l'oscurantismo e la barbarie dell'estremismo islamico, anche se forse la risposta migliore la stanno dando proprio in questi momenti, no? A partire dal tardo pomeriggio, ancora questa sera, le decine di migliaia di francesi, probabilmente più di 100.000, che stanno spontaneamente riempiendo le piazze di molte città con lo slogan "Siamo tutti Charlie" e con le matite in mano. Grazie, grazie Marco Mussanè da Parigi. Ciao Marco. A Ciao. E a proposito di quello che diceva Marco Mussanè, oggi c'è stato, fra le varie manifestazioni, questo grande manifestazione in Place de la République proprio in solidarietà a Charlie Hebdo. Sentiamo un po' l'atmosfera. Ed era lì Nicola Cardo oggi, no, a seguire queste manifestazioni. Nicola, gli slogan che abbiamo sentito, naturalmente immagino che ci sia una grande partecipazione del popolo francese, spaventato da una parte, ma come si può dire, che è fermo sulle proprie posizioni di voler difendere la libertà di informazione, la democrazia, la libertà anche di espressione, no Nicola? Sì, buonasera Roberta. Place de la République stasera si è trasformata nel cuore pulsante di Parigi, o meglio ancora il cervello, perché erano persone che sentivano il dovere di esserci in onore ai valori e ai principi della cittadinanza. Non erano in preda all'emozione, non era l'emozione che li portava a partecipare a questa manifestazione. Cifre impressionanti, perché secondo l'agenzia France Presse a Parigi si sono riunite 35.000 persone, 5.000 secondo la polizia. Sta di fatto che dopo 5 ore dall'inizio della manifestazione in Place de la République non si è ancora svuotata, ci sono ancora persone che fanno una vera e propria veglia in onore delle vittime e in difesa del giornale Charlie Hebdo. L'indignazione si è fatta sentire anche a Lille, a Lione, a Marsiglia, in tutte le principali città, e si stimano in 100.000 le persone scese in piazza. Io personalmente ho assistito a una manifestazione silenziosa, priva di colori politici, priva di slogan politici, e quello che avete fatto sentire è uno degli sporadici cori in favore appunto della democrazia, della libertà di opinione. C'erano penne e matite rivolte al cielo, le copertine più celebri di Charlie Hebdo, c'erano candele in segno di lutto intorno alla statua che simboleggia la libertà, e il momento più emozionante è stato il volo di 12 lanterne luminose, una per ogni vittima dell'attentato. Secondo me c'è da sottolineare una richiesta dei cittadini più delle altre, che è pad amalgam, non vogliamo fare confusione, non vogliamo fare accuse generalizzate nei confronti dell'Islam e nei cittadini di confessione musulmana. Prima parlavi di paure, questa è la paura più forte dei cittadini francesi, o almeno di quelli che sono scesi in Place de la République, quella che si faccia generalizzazione e che si crei una frattura all'interno della società. Grazie Nicola Cardo, ciao Nicola, buon lavoro. Grazie. Buona continuazione. E vorrei sentire su questo Arturo Varvelli, buonasera Varvelli. Buonasera a voi. Che è responsabile dell'osservatorio sul terrorismo dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Quindi, mentre Marine Le Pen, la leader del Front National, del partito di estrema destra francese, dice basta ipocrisia, diciamo che questo integralismo islamico, in realtà ancora non è stato verificato, assodato che si tratti di questo, Varvelli? Sì. Bisogna essere naturalmente molto cauti nei giudizi e nei commenti che noi stiamo dando in questi momenti. Sembrerebbe, naturalmente ci sono tutti gli elementi per dire che si tratta di terrorismo islamico, ma ancora se così fosse non abbiamo la certezza, la sicurezza di chi è stato a compierlo e di quale gruppo lo rivendica. Non c'è stata ancora una rivendicazione, non c'è sicurezza diciamo di chi siano gli attentatori. Prima si è parlato di ACAP, cioè il gruppo di Al-Qaeda nello Yemen, adesso sembra che vi siano segnalazioni relative a due franco-algerini, quindi ancora viviamo in questa incertezza ed è quindi giusto aspettare ancora prima di identificare la matrice di questi attentatori, anche perché proprio per quanto diceva appena detto il giornalista, noi non dobbiamo assolutamente avere una visione manichea di un Islam diciamo totalmente schierato contro di noi. Anche addirittura diciamo l'Islam più radicale e le correnti jihadiste sono numerose, variegate e diverse in questo momento, e forse questo attentato si spiega anche in quest'ottica, si spiega in un'ottica di concorrenziale tra le varie anime degli jihadisti del radicalismo islamico in questo momento, una sorta di concorrenza e di diciamo tentativo di mettersi in evidenza. Varvelli, per chiudere, c'è motivo di pensare che la Francia sia più a rischio di altri paesi europei? Ci sono esattamente diciamo due ordini di motivi per i quali la Francia può essere più a rischio di altri, e di altri intendiamo naturalmente sempre un po' il nostro paese come termine di paragone. Innanzitutto la Francia è molto più attiva di noi su questi teatri, questo naturalmente non è una giustificazione, ma è uno dei fattori che in qualche maniera incidono e mettono allerta un paese rispetto a un altro. È attivo perché è intervenuto in Mali, è intervenuto in prima battuta in Libia, sappiamo quanto siano stati interessati e quanto l'iniziativa sia nata da loro, sono molto più attivi di noi in Medio Oriente, certamente sono attivi anche su altri fronti africani come il Centrafrica o la Costa o da altre parti insomma. E poi elemento da tenere in grande considerazione, hanno una grande comunità islamica all'interno del paese, e tra questi c'è un folto gruppo, si parla di 800-1000 persone che sono andati a combattere sul fronte siriano iracheno, e quindi in qualche maniera potrebbero essere elementi di pericolo quando ritornano in Francia. Alcuni di questi potrebbero avere anche passaporto francese, quindi difficilmente identificabili, e tornare in qualche maniera più radicalizzati di prima e con delle expertise, delle capacità di porre in atto attentati come questo che abbiamo visto, che naturalmente un elemento essenziale da valutare è proprio quello relativo alla capacità militare di questo comando, perché si è trattato di un vero e proprio comando con una capacità molto elevata di portare a termine una missione simile. Grazie Arturo Varvelli intanto. Grazie a voi. Grazie, buona continuazione. Ancora i vostri messaggi al 349-238-6666. C'è Davide, per esempio, che suggerisce come risposta all'attentato: vorrei vedere vignette pubblicate su ogni quotidiano europeo, una pagina su ogni giornale lo stesso giorno. Però non so se sia la soluzione migliore questa, Davide, di acuire un po' questa tensione. Poi c'è Tariq sulla pagina Facebook di Effetto Note che dice: i giornalisti non si toccano, hanno il dovere di fornirci delle informazioni, hanno il diritto di avere delle informazioni. Poi informazioni ve le continuerò a dare dopo, in realtà poi parleremo dei funerali di Pino Daniele, e anche, visto come dicevo, che molti saranno posti questa questione del fatto di capire che come ci si deve comportare nel caso succedesse malauguratamente una cosa simile a quella che è successa a Pino Daniele. Mi scrive un ascoltatore: Roberta, almeno tu, almeno lei parli dell'amore dei napoletani per Pino, un grandissimo amore dei napoletani, naturalmente, se ricordate, forse mi pare nel 1981, quel enorme concerto in Piazza Plebiscito, che è rimasto davvero come un simbolo indelebile dell'amore di Napoli per Pino Daniele e viceversa, ma naturalmente è un amore questo diffuso, nazionale, anche internazionale. Pino Daniele è stato un bluesman apprezzatissimo in tante parti del mondo, anche negli Stati Uniti. Ma intanto oggi è stato il giorno, vi dicevo, del doppio funerale di Pino Daniele, a Roma al Santuario del Divino Amore e poi a Napoli c'è stato in serata in Piazza Plebiscito. Proprio un lungo applauso, cori, Pino hanno colto l'arrivo del feretro in chiesa a Roma intorno alle 11:30 e poi poco dopo le 19 a Napoli. Sentiamo un passaggio. E come si può rimanere impassibili o insensibili di fronte a un capolavoro come Napolè, per esempio, e tanti di Pino Daniele? Ci colleghiamo con Napoli, proprio con Carmelo Presti Simone. Ciao Carmelo. Ciao Roberta. E oggi eri lì a seguire i funerali che si sono tenuti a Napoli, fortemente voluti, mi sembra, soprattutto dai suoi fratelli, no? Che hanno un po' bisticciato, dicevano, con la famiglia. C'è questa lotta tra l'ex di Pino Daniele, che ha avuto due mogli, e poi l'ultima compagna, che è quella che l'avrebbe accompagnato a Roma, forse un po' tardi. E Carmelo? Assolutamente, voluti dai suoi fratelli che risiedono qui a Napoli, e ti dico subito che tale l'amore dei napoletani per Pino Daniele che stasera sembrava di assistere a un concerto, non a un funerale. Il secondo funerale di Pino Daniele, dopo quello celebrato stamattina a Roma, un ascoltatore prima chiedeva informazioni in merito se era possibile celebrare due funerali. Sì. Beh, per i napoletani, per gli artisti, i grandi artisti napoletani, evidentemente sì, perché successe anche per Totò nel 67 con la stessa sequenza: Roma, prima Roma e poi Napoli. Quindi per sì, i grandi è possibile, evidentemente. Sotto tutti i punti di vista, non un rito funebre, perché c'era questo palco all'aperto, una leggera pioggia di fianco, un maxi schermo in piazza del Plebiscito, nella sua piazza dove giustamente tu ricordavi tenne nell'81, 33 anni fa, un suo concerto, probabilmente quello più famoso o quello comunque che i napoletani non più giovanissimi ricordano meglio. C'erano tante persone, Roberta, 100.000 anche stasera dopo il flash mob di ieri sera sempre in piazza del Plebiscito, perché idealmente tutti i napoletani volevano tributare l'ultimo saluto ad uno dei figli più illustri della città. La cerimonia è stata officiata dal cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, c'era tutta la sua famiglia accolta dal sindaco De Magistris prima di trasferirsi in piazza, i suoi cinque figli, le due mogli, la compagna, i fratelli che, come dicevo prima, risiedono e vivono a Napoli, e la folla composta che dopo la fine dei funerali non ha lasciato la piazza, anzi l'ha animata, la sta animando, la sta tenendo viva davanti al feretro, intonando i suoi pezzi più celebri, da Napulei, So Paz, Voglio Mare, poi Pino Daniele ne ha cantati tanti e tutti belli che effettivamente elencarli sarebbe davvero difficile. Fans da tutta la Campania, ma dal nord Italia anche, certo. Anche qualche emigrante l'abbiamo individuato che vive in Europa ed è tornato a casa per salutare Pino Daniele. Tanto dolore, ma anche tanto l'orgoglio per i napoletani che si fregiano così a ragione di avere accolto per l'ultima volta un bravo, illustre e generoso concittadino, perché Pino Daniele, oltre ad aver donato tante emozioni, ha anche aiutato, quando ha potuto, diverse persone in difficoltà, Roberta. Grazie Carmelo Presti Simone. Grazie per il suo racconto. Ciao. Sapete, ci sono anche gli aspetti un pochino più controversi, più amari, ma questo, diciamo, succede, come si dice, anche nelle migliori famiglie. C'è stato delle polemiche tra, sapete, ha avuto una prima moglie, poi una seconda moglie, due figli con la prima moglie, tre figli con la seconda moglie, poi una compagna che aveva nell'ultimo anno, e Amanda Bonini, che è la donna che lo avrebbe poi accompagnato dalla Maremma, dove aveva la casa, dove stava con lei, a Roma, dove c'era il cardiologo di fiducia di Pino Daniele. Adesso è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti per il momento. C'è la seconda moglie di Pino Daniele che dice, Amanda, cioè l'ultima compagna, parli, dica quello che sa, c'era lei con lui, perché invece di portarlo all'ospedale vicino o di lasciarlo prendere l'ambulanza l'ho portato a Roma. Insomma, la compagna, l'ultima compagna di Pino Daniele, oggi è stata interrogata. Sono stati acquisiti documenti dei medici, testimonianze, eccetera. Ma al di là di questo, che poi chiariranno un po' i magistrati, domani si farà l'autopsia. E i fratelli hanno detto oggi, esprimendo tutto l'amore, naturalmente tutto il dolore, che lui era cardiopatico come tutti loro. Sono i sei fratelli in totale, Pino Daniele era il primo, tutti purtroppo malati di cuore. Pino Daniele aveva anche dei bypass. E allora, come immagino che molti di voi si saranno chiesti, oltre al dispiacere, si saranno chiesti se dovesse succedere una cosa del genere, lui avrà fatto bene? Forse no, per quello che è successo sarebbe successo comunque, chi lo sa. Però se si dovesse sentire, si dovessero avvertire sintomi di un sospetto attacco cardiaco, come ci si deve comportare? Allora coinvolgo il professor Massimo Gualerzi. Buonasera. Buonasera, buonasera Roberta. Cardiologo della Fondazione Don Gnocchi di Parma, all'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica. Che cosa bisogna fare? Intanto i sintomi che devono un po' allertarci, senza che adesso li sentiate tutti, ma insomma, quali dovrebbero essere? Sì, innanzitutto bisogna precisare appunto una cosa, stiamo parlando di una persona che era cardiopatica, quindi in questo caso il sintomo è più, diciamo, dirimente, quindi aiuta un pochino più a capire il fatto che si potesse trattare appunto di cuore. Dico questo perché i sintomi di un infarto spesso sono difficili da capire anche da parte di un medico, e quindi figuriamoci di una persona che non li ha mai avuti, perché possono mimare anche il classico mal di stomaco, diciamo che solitamente un dolore molto oppressivo che colpisce il torace e può irradiarsi anche al collo, alla mandibola, alle spalle, anche la famosa mano, no? Che tutti ormai sanno si può irradiare verso il braccio. Più spesso appunto questi dolori avvengono sotto sforzo, ma possono avvenire anche a riposo quando si tratta appunto di un infarto, e quindi questi più o meno sono i sintomi. Spesso si accompagnano anche a sintomi un pochino più vegetativi del sistema vegetativo, come la nausea, il vomito, e quindi proprio un dolore di tipo viscerale. C'è una differenza, professor Gualerzi, tra le donne e gli uomini? Perché ultimamente mi è parso di sentire che a volte è più difficile riconoscerlo nelle donne, perché si danno per ufficiali certi sintomi, ma nelle donne può essere anche diverso in realtà. In effetti gli uomini hanno, diciamo, più facilmente un dolore, diciamo, che si può irradiare appunto anche al collo, quindi al giugulo, alla mandibola. Nelle donne pare il dolore essere un pochino più localizzato, quindi mimare un pochino di più il classico mal di stomaco, ecco, e questo rende stomaco un pochino più difficile la diagnosi, almeno così in apparenza differenziale. Ci dice Gualerzi, per avere le idee chiare, che cosa bisogna fare in questi casi? Allora, sicuramente diciamo che se questo dolore compare in una persona a rischio, quindi una persona come in questo caso che va da problematiche cardiache, o una persona che ha tanti fattori di rischio, quindi non al ventenne che magari può avere tranquillamente anche dolori intercostali. Ricordo che il dolore toracico può essere anche tipico di dolori osteoarticolari o muscolari. Comunque sostanzialmente se uno ha una probabilità o più probabilità di avere problemi cardiovascolari, ecco che un dolore al torace deve portarci subito ad andare nell'ospedale più vicino, anche perché ormai esistono delle procedure molto standardizzate, quindi non esistono ospedali di serie A o ospedali di serie B, almeno nell'acuzie. Ma c'è, come ci andiamo? Con la macchina o come ci andiamo? No, in realtà è meglio farsi trasportare, anche perché gli operatori di prima assistenza hanno comunque degli strumenti che consentono anche di trasmettere direttamente all'unità più vicina il tracciato, quindi l'elettrocardiogramma, di monitorizzare i parametri e quindi anche di far fronte ad eventuali complicazioni che si possono generare come un arresto cardiaco, comunque come una desaturazione, cioè una riduzione dell'ossigeno nel sangue, o come un abbassamento della pressione. Quindi è sempre meglio farsi trasportare per essere proprio più sicuri. Quindi chiamare il 118, non mettersi in macchina e andare, chiamare il 118. Chiamare il 118, aspettare in casa, in posizione comoda, rilassata, seduti, senza fare degli sforzi, perché questo aggraverebbe la sofferenza del cuore, e quindi oggi ormai diciamo che in pochi minuti quasi da tutte le parti in Italia esiste una rete assistenziale che consente al massimo in un'ora di essere all'interno di un ospedale in grado di trattare in acuto questo tipo di problemi qualora ce ne sia la necessità. Professor Gualerzi, noi non diciamo nient'altro sul caso di Pino Daniele, nel senso lì poi appureranno i medici, i magistrati, come è andata, se doveva essere accompagnato, se sarebbe successo comunque, no? O lei si sente di fare un commento? No, il commento è quello che tutti da tutte le situazioni, adesso al di là di come sono andate veramente, possiamo trarre un insegnamento. E l'insegnamento in questo caso è quello anche di capire quei minimi errori che possono essere stati fatti, se sono stati fatti, e comunque diciamo che possiamo dire che è sempre meglio attendere l'arrivo dell'ambulanza, del 118, farsi accompagnare e diciamo andare nell'ospedale più vicino, perché oggi, come dicono gli anglosassoni, time is muscle, cioè il tempo è muscolo, nel senso che prima si fa, più si salvaguarda il muscolo cardiaco, e quindi in questo caso più che l'abilità degli operatori, il tempo che ci si mette ad arrivare in ospedale è la vera differenza sulla, diciamo, modo e la probabilità di salvare la persona, ma anche l'efficienza del muscolo cardiaco. Prima siamo trattati, prima siamo stabilizzati, meglio è. E quindi diciamo attenersi alle procedure, oggi si fanno convegni interi su come noi operatori dobbiamo agire per fare in modo di essere il prima possibile a casa delle persone, il prima possibile portare in ospedale, il prima possibile intervenire. Grazie professor Qualerzi. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, buona serata. Europa 24 notte. Per l'Europa parliamo di migrazione stasera, nuovo anno, quindi tempi di bilanci. Il 2014 si è rivelato un anno nero per ciò che riguarda gli sbarchi di immigrati e i morti in mare. Secondo i dati forniti dall'Agenzia Europea per le Frontiere, Frontex, sono stati 270.000 migranti arrivati in Europa, quasi il 60% in più rispetto all'anno precedente, a causa soprattutto del conflitto siriano e della crescente instabilità della sponda sud del Mediterraneo, mentre stanno cambiando sia le rotte sia le tecniche utilizzate dagli scafisti. Il passaggio di testimone tra Mare Nostrum e Triton non sembra aver funzionato come si sperava, ma il 2014 non è tutto da buttare, così dice il presidente del Consiglio italiano dei rifugiati, Christopher Hein. Sentiamolo al microfono di Alessandra Schepisi. Gli avvenimenti di queste ultime due settimane hanno dimostrato anche una capacità delle organizzazioni di trafficanti a adeguarsi a nuove situazioni, nuove circostanze. Tanto Mare Nostrum quanto Triton sono operazioni che si svolgono nel canale di Sicilia, non nella parte che va dalla Turchia e dalla Grecia verso la costa adriatica. Quindi abbiamo notato proprio dalla metà del mese di dicembre in poi, fino ai nostri giorni adesso, un importante cambio anche di rotta. Cambio di rotta dei migranti, sì. Cambio di rotta assieme anche con un cambiamento delle tecniche utilizzate da parte dei trafficanti, l'utilizzo quindi di navi commerciali, anche se vecchi, anche se cose a bordo della demolizione, però che comunque richiedono un'organizzazione ben più vasta. Qui parliamo proprio di navi commerciali con molti centinaia di persone che seguono anche le rotte delle navi commerciali in generale e che partono direttamente dalla Turchia. Anche questo, diciamo, non è del tutto nuovo, però in questa dimensione indica una diversità con rispetto alle rotte che durante quasi tutto l'anno 2014 sono andati dal Medio Oriente verso l'Egitto, dall'Egitto verso la Libia, dalla Libia verso l'Italia. Quindi di fronte a questo cambiamento come si può reagire? Cosa può fare l'Europa? La risposta politica di fondo è e deve essere indipendente dalle tecniche utilizzate dalle organizzazioni dei trafficanti. Deve affrontare la situazione alla radice, cioè di permettere veri modalità di arrivo legale e protetto di persone che hanno bisogno della protezione nei paesi dell'Unione Europea. Quindi degli accordi tra paesi. Degli accordi, ma anche delle disponibilità dimostrate dagli Stati membri dell'Unione Europea di aumentare fortemente il numero di rifugiati che vengono legalmente trasferiti da paesi di primo rifugio, innanzitutto dal Libano. La Germania nel 2014 ha fatto un primo passo in questa direzione con una quota di 25.000 rifugiati siriani che vengono quindi da Beirut via aerea direttamente trasferiti in Germania. Più la Germania ha aperto un canale di sponsorizzazione da parte di familiari di siriani già residenti in Germania in misura di 12.000. Gli altri stati membri, come anche stati più piccoli come Austria, Svizzera, Olanda, Svezia, eccetera, hanno messo a disposizione quote ben più modesti. Finché c'è questa impossibilità per la stragrande maggioranza dei rifugiati che per buoni motivi vogliono o devono arrivare in Europa, di avere dei canali legali, inevitabilmente si gonfiano ancora di più le organizzazioni criminali. Lì e là, e questo, diciamo, lei diceva giustamente 2014 un anno nero, però è anche un anno dove si comincia non solo a riflettere ma anche di fare i primi passi. E il buon esempio è sicuramente la Germania. Bisogna dirlo, è la Germania. Nel 2015 più accoglienza, questa dovrebbe essere la parola d'ordine. Più accoglienza, no? Sì. E c'è, diciamo, un recentissimo pronunciamento anche da parte del commissario Avramopoulos, responsabile per l'immigrazione, che presenterà in prima primavera un piano dell'Unione Europea per l'immigrazione, parla precisamente anche dei canali di un ingresso legale di rifugiati. Un anno fa non era assolutamente scontato che un commissario dell'Unione Europea avrebbe pronunciato queste parole così chiaramente. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E mentre vedo ancora moltissimi dei vostri messaggi, poi leggete anche una spiegazione di un ascoltatore sul doppio funerale, che è possibile in realtà in Italia, vorrei parlare di tutt'altro con Salvatore Chicco Padula, vice direttore del Sole. Ciao Chicco. Buonasera, ciao. Con il nuovo record storico, dato per stare sulle buone notizie, per la disoccupazione in Italia, secondo i dati Istat, e con la nostra specificità più negativa, che è il record di disoccupazione giovanile, mi pare sia arrivato più o meno al 44%, no Chicco? Sì, sono, insomma, i dati di oggi sul mercato del lavoro sono particolarmente brutti, perché giustamente, come ricordavi tu, il tasso di disoccupazione è aumentato ancora, è salito a novembre al 13,4% e l'Istat ci fa sapere che questo è il valore più alto da 37 anni a questa parte. I disoccupati sono quasi 3.500.000 e sono 264.000 in più rispetto a un anno fa. E poi c'è questo dato, diciamo, ancora più eclatante sui giovani, perché tra i giovani fino a 24 anni il tasso sfiora il 44%, 43,9%, e ci sono 730.000 under 25 che stanno cercando un lavoro. Però la cosa importante da ricordare, che purtroppo non è bella neanche questa, è che in realtà questo dato sulla disoccupazione, voglio dire, il tasso di disoccupazione può crescere, può aumentare, perché aumentano le persone che si mettono effettivamente a cercare un lavoro, magari perché hanno più fiducia di poterne trovare uno. Quindi il dato dell'aumento della disoccupazione non è di per sé negativo. Io penso che sia più facile trovare lavoro, quindi mi metto a cercarlo, quindi statisticamente entro in questo numero. Ma oggi l'Istat comunica un altro numero che è molto più preoccupante, cioè il numero degli occupati, cioè quel valore che indica quanti sono i nuovi posti di lavoro che vengono creati o che si perdono mese su mese. Bene, a novembre, questo è il dato brutto, sono stati persi 48.000 occupati, quindi 48.000 posti che sono svaniti nel nulla. In due mesi, ottobre e novembre, sono stati persi oltre 110.000 posti di lavoro. E quindi diciamo, questo è il dato, a mio avviso, più preoccupante, non tanto la disoccupazione in sé, che come ho detto dipende anche da il fatto che qualcuno fattori. Si metta a cercare il lavoro prima non entrava nelle statistiche. Esattamente, ma questi invece sono posti di lavoro persi. Avevamo avuto nella prima parte del 2014, anzi direi da febbraio-marzo in poi, un andamento positivo dei nuovi posti di lavoro creati, cioè sono stati creati circa 100.000 posti di lavoro in Chico, più. No, sono chiare le notizie, dobbiamo lasciarci perché senti salire la sigla. Noi aspettiamo il Jobs Act al varco comunque. Aspettiamo il Jobs Act, sì. Grazie Chico Padula, buon grazie lavoro. A voi. Ciao, ciao Chico, a dopo.